06 49 17 50 è il numero telefonico a cui potete chiamarci quando e se volete. Ora di buco chiocciola ondarossa.info, la mail a cui potete scriverci. Abbiamo anche un blog, il blog è oradibuco.noblogs.org, dove trovate tutte le puntate andate in onda e anche molti documenti e informazioni altre. Cominciamo la puntata di oggi dando conto del decreto scuola che è diventata legge. Il decreto scuola, ne abbiamo già parlato durante questa stagione dell'ora di buco, perché è stato appunto presentato dal Consiglio, è stato discusso dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre, che era il giorno in cui in molte regioni è iniziata la scuola, e poi ovviamente ha avuto il suo iter parlamentare, è diventata legge adesso, perché appunto il tempo, sono 60 giorni credo il tempo massimo che in cui un decreto può stazionare senza passare dalle, senza avere l'approvazione delle Camere. È stato approvato con 150 voti favorevoli su 226 votanti, 15 no e 61 astensioni. Si sta parlando dell'ultima votazione, che anche dai numeri si capisce sono viene stato al Senato, insomma. Dopo anni di sacrifici, di tagli alla cieca, ricorda Giorgio Napolitano, questo decreto restituisce finalmente risorse e centralità al mondo dell'istruzione. Non è Napolitano, ma è la ministra, perché dopo dice: sono orgogliosa del lavoro fatto anche nel passaggio in Parlamento, dove sono arrivati miglioramenti e proposte sulle quali mi impegno a proseguire il confronto. E su questo già potremmo aprire un confronto, nel senso che dire che questo decreto rende finalmente, come dice la nostra ministra, dice che mette al centro l'istruzione, mi sembra un po' tantino, ecco, nel senso come valutazione, nel senso che vogliamo ricordare che con l'ultimo governo Berlusconi sono stati tolti 8 miliardi su 40 l'anno alla scuola, con Monti siamo arrivati quasi a 9, quindi è stato superato un quinto di tagli sulla scuola. Non è che questo decreto e questa legge li rende indietro, quindi non è che dà centralità alla scuola, mette una qualche topparella qua e là su una voragine. Sì, no, infatti le espressioni del ministro sono assolutamente altisonanti, soprattutto in relazione a quello che è poi il contenuto del provvedimento. In realtà di questa cosa abbiamo già parlato nel momento in cui è stato varato, è un provvedimento disomogeneo, assolutamente frammentario, che ha tra l'altro diversi aspetti critici, ma che è stato sbandierato tanto da Letta quanto dalla ministra Carrozza come un'inversione di tendenza, finalmente un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti della scuola e l'atteggiamento nei confronti dell'istruzione. Ma in realtà, appunto, andando a vedere proprio punto per punto, è proprio evidente quello che si diceva prima, cioè che quello che è stato tolto non viene restituito, né è possibile che venga restituito in tempi brevi, proprio a iniziare anche dai primi punti del provvedimento, anche forse i punti più sbandierati, quelli che riguardano il welfare dello studente e in particolar modo quello che riguarda l'aumento del fondo per le borse di studio degli studenti universitari, che sarebbe stato appunto aumentato, che verrà aumentato di 100 milioni proprio a seguito del decreto scuola. E obiettivamente ricorderemo tutti come il fondo per il diritto allo studio governo Berlusconi e poi dal successivo governo Monti era stato praticamente azzerato, sostanzialmente azzerato, o comunque ridotto veramente ai minimi termini, tanto ridotto ai minimi termini che essendo molto lunghe le liste degli idonei alle borse di studio non aventi diritto, quindi persone che erano in condizioni economiche di avere per avere il diritto alla borsa di studio ma che non potevano goderne per l'insufficiente numero delle borse di studio essendo stati ridotti i fondi, se il governo Monti in particolare particolar modo il ministro Profumo aveva addirittura provveduto a tagliare a rivedere i criteri per l'assegnazione delle borse di studio, riducendo sostanzialmente i parametri per avere diritto. Quindi diciamo questi 100 milioni funzionano un pochino come una goccia in un oceano di vuoto, il vuoto che è stato creato sostanzialmente in questi ultimi anni. Sempre per il welfare dello studente, che vorrei sottolineare non è una nostra espressione ma è proprio il titolo della legge, cioè il titolo, uno dei titoli della legge si intitola così, vengono stanziati 15 milioni per il 2014 per garantire il raggiungimento, dice il testo di legge, dei più alti livelli di istruzione, cioè di fatto quello di cui parla questo capitolo è che vengono dati questi soldi per esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica, anche con riferimento alle esigenze di studenti con disabilità e a soggetti che abbiano condizioni economiche svantaggiate, diciamo. Quindi insomma sono 15 milioni in cui ci rientrano il trasporto per raggiungere le scuole, esigenze specifiche di persone con handicap e poi le condizioni economiche disagiate. Sì, diciamo, se da un certo punto di vista c'è da registrare nel passaggio sostanzialmente un miglioramento di questo specifico punto, perché forse chi ci ha ascoltato ricorderà che nella precedente versione del decreto questi fondi erano previsti nello specifico esplicitamente per studenti capaci e meritevoli, invece questa notazione è sparita, almeno per quanto ci è dato di vedere, insomma, dal testo che è stato pubblicato, è sparita dal testo del provvedimento, e conseguentemente sono 15 milioni che vanno a colmare situazioni di disagio, sia situazioni di disagio relative a studenti con handicap, sia situazioni di disagio relative alla sfera dei trasporti. Non si vede perché un fatto che dovrebbe essere un appannaggio di tutti comunque venga finalizzato in qualche modo al raggiungimento dei più alti livelli di istruzione. Sfugge questo, perché i trasporti per raggiungere la scuola o l'assistenza ai disabili all'interno delle scuole è un fatto completamente svincolato dal raggiungimento di medi, alti o bassi livelli di istruzione, ma è un fatto di base che deve essere comunque garantito. Poi si stanziano 15 milioni per la connettività wireless nelle scuole secondarie, con priorità per quelle di secondo grado, cioè per le superiori. E anche su questo forse prima o poi, cioè 15 milioni in questo decreto sono tanti, nel senso che non vengono stanziati tanti soldi. 15 milioni sono una cifra ragguardevole rispetto alle briciole che si buttano così. E una priorità nazionale pare essere questa del wireless in tutte le scuole. Io credo che un giorno dovremo pure discuterne di questa priorità, nel senso che da una parte evidentemente il diritto alla salute viene dopo il diritto alla formazione, perché le reti wireless è già un dato accertato insomma i campi elettromagnetici producono rischi tumorali sostanzialmente, e significa mettere lavoratori e lavoratrici sotto l'effetto continuo di questi campi, e gli studenti nelle ore in cui appunto stanno a scuola. Adesso tutte le scuole piano piano vengono appunto dotate di reti molto forti, anche fra l'altro perché per coprire interi edifici con 50 aule, palestre, corridoi, bagni, eccetera, insomma si tratta di superfici molto ampie, e quindi devono essere, insomma, reti, non ballerine, ecco. Siccome sono sospettosa per natura, a questo punto è evidente che poi questi soldi andranno a ditte che faranno questa implementazione, no? Quindi insomma un po' di sospetto diviene, nel senso che appunto non è che adesso vogliamo fare partire con una crociata contro le reti wireless, per quanto quello che dicevi tu è sacrosanto e ce lo siamo posti anche a scuola da noi, però è rimasto così, ma chissà, fanno male, però boh. Però insomma, a prescindere da ogni cosa, rispetto a altre questioni personalmente non mi sembrano priorità, se non per le ditte che poi faranno queste implementazioni. Sì, anche perché non c'è stato nessun dibattito su quanto sia didatticamente utile o non utile la connettività 24 ore su 24 in ogni stanza. Cioè non è che queste è un dato di fatto incontrovertibile, dovremmo discuterne. No, viene dato per scontato, cioè anche dal testo del provvedimento viene dato per scontato il fatto che poter accedere in maniera rapida alle informazioni per via digitale sia un indubbio vantaggio per la didattica e per la alfabetizzazione digitale di insegnanti e studenti, però dibattito nel mondo della scuola e diciamo così nel mondo virgolette dell'intellettualità non c'è stato, non si è avvertito. Andando avanti a vedere insomma questo decreto che è diventata la legge 104 del 2013, si parla dei libri di testo e più o meno si dice quello che era già stato detto dal decreto, cioè che gli studenti possono usare le edizioni precedenti, e questo avevamo già riso della ridicolaggine di questo decreto perché gli studenti e le studentesse hanno sempre usato le edizioni precedenti evidentemente. Poi sono stati stanziati 8 milioni per progetti delle scuole che possono così acquistare libri di carta o ebook e darli in comodato d'uso agli studenti. Peraltro questi progetti già esistono, insomma io ho insegnato in una scuola, il liceo Enriquez di Ostia, dove si poteva prendere il libro in comodato e sinceramente non è una brutta cosa. Per il resto l'unica cosa veramente notevole che io spero sinceramente rimanga è l'adozione, a mio parere questo è una cosa notevole, cioè che l'adozione dei libri di testo scolastico non è più obbligatoria, cioè i docenti possono scegliere se far adottare o meno. Perché dico questo? Perché fino adesso invece obbligatoriamente il docente doveva indicare un libro di testo, nel caso non l'avesse indicato passava quello dell'anno precedente, ma comunque sempre obbligatorio era, mentre adesso si potrà scegliere se magari per una materia semplicemente non c'è bisogno del libro di testo. E questo capita a scuola perché una materia come lettere, che è la materia che insegno io, abbiamo tante materie, sottomaterie, non so, per esempio storia, geografia, educazione civica, sono necessari 3 libri, anche no, si può fare educazione civica, si riesce a fare anche con altri strumenti, insomma a volte, no? Non, per fare il primo esempio che mi viene in mente. Oppure si parla anche esplicitamente nel decreto del fatto che le scuole stesse possano elaborare delle dispense sostanzialmente o di carta o digitali, sempre per abbassare il costo imposto alle famiglie. A me questo sembra una buona cosa, speriamo rimanga, perché per ora le case editrici hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo insomma nelle scuole. Forse non si sono accorte, perché obiettivamente è un aspetto rilevante, così come un aspetto rilevante appunto quello che dicevi, la possibilità di fare dispense, materiali autoprodotti da insegnanti o anche dagli studenti, e questo potrebbe rappresentare obiettivamente un'innovazione nell'ambito della scuola e della didattica. L'altro punto sempre della legge 104 riguarda invece la lotta alla dispersione. Sono stanziati 15 milioni di euro per la lotta alla dispersione scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado, e il provvedimento abbastanza discusso in rapporto all'avviamento di un programma di didattica integrativa che rafforza le competenze di base in aree a particolare rischio di dispersione, anche attraverso un prolungamento dell'orario scolastico. L'aspetto rilevante della legge 104 è che, nonostante alcune anticipazioni che erano circolate, è affermato chiaramente che le risorse stanziate per questo programma potranno essere utilizzate anche per il compenso del personale interno alla scuola, per cui per il compenso del personale docente, per il compenso del personale ATA, mentre invece in precedenza da alcune anticipazioni nella fase di conversione in legge sembrava possibile supporre che fossero destinate esclusivamente sostanzialmente a consulenti in rapporti di natura privato o privatistica, sostanzialmente consulenti che rimangono, nel senso che possano essere affidati comunque anche agli esterni. Si parla poi molto di orientamento post scolastico degli studenti, se ne parla a mio parere anche troppo, perché visto dall'interno della scuola io sinceramente ho sempre creduto poco alla grandissima utilità e concretezza di questo orientamento che aiuterebbe gli studenti, però insomma magari mi sbaglio io, non è che pretendo di avere la verità in pugno. Certo, quello che fa specie invece è il grandissimo spazio dato a quello che la legge definisce il valore educativo e formativo del lavoro. Ora, io sinceramente non credo che il lavoro abbia un valore di per sé educativo e formativo, perché credo che il lavoro sia sfruttamento e che quando si parla di fare giornate di formazione in azienda ben 2 anni prima che finiscano le scuole superiori, sugli ultimi 2 anni, soprattutto ovviamente di tecnici e professionali, quello che io immagino è che si prenda lavoro gratuito dai ragazzi e dalle ragazze, che va tutto a pro delle aziende e per niente a pro loro. Cioè, molto facile che soprattutto studenti e studentesse di professionali diventino garzoni di bottega non pagati, sfruttati fino all'osso, e che imparino anche il giusto. Io non credo di essere, come dire, che sia una mia visione, insomma, questo. Questo sembra proprio la, come dire, la cosa a cui la carrozza è più affezionata. Sì, che poi ci sono i laboratori, no, in queste scuole, quindi lì si può fare pratica, dovrebbe essere proprio quello lo scopo, eventualmente si possono fare tirocini post diplomi, almeno pagati, insomma, una certa cifra, perché pure questo è lo stesso sospetto che ho avuto io, che poi appunto si vada a fare l'apprendista gratis e con la ricaduta sia sul ragazzo o la ragazza che lo fa, sia su un'eventuale nuova assunzione di cui potrebbe aver bisogno la ditta. No, no, ma non è un tuo timore, ma credo che sia proprio un fatto, perché è interessante a questo proposito leggere proprio il comma relativo, perché appunto viene avviato dalla legge un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi 2 anni delle scuole superiori, quindi per tutti gli studenti, non solamente quelli degli istituti tecnici, o almeno stando al dettato della legge. Ma questo contempla questo programma contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese e stipulati in convenzione con le istituzioni scolastiche. Sostanzialmente le convenzioni, è scritto esplicitamente, devono valutare ovviamente i diritti degli studenti coinvolti e il numero minimo di ore di didattica curricolare, quindi il numero minimo di ore di didattica curricolare, e poi i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, quindi è lavoro in cambio di crediti, in buona sostanza, se interpreto correttamente. E comunque appunto, se qualcuno scrive far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro in apertura di un comma di legge, insomma, secondo me la dice lunga, ecco, su come soprattutto se è una legge sulla scuola, ecco. Cercando di andare un po' velocemente, potenziamento dell'offerta formativa, torna alla geografia negli istituti tecnici che era stata cassata dalla Gelmini, tutela della salute a scuola, non si fuma nemmeno le sigarette elettroniche, si cerca di privilegiare nelle mense, dice la legge, nella refezione scolastica la filiera corta, cioè il chilometro zero e i cibi biologici. Sì, poi c'è anche l'aspetto delle immissioni in ruolo, no? Che sono state quantificate in 69.000 docenti in 3 anni e 16.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Ora, a fronte di il blocco praticamente delle pensioni, perché è di fatto questo rispetto agli anni scorsi prima della riforma Fornero, sono precipitati i pensionamenti per l'impossibilità appunto di usufruirne con le modalità precedenti, e quindi io sinceramente non riesco a capire come metteranno in ruolo queste persone, se fra l'altro ci sono compresi in questi 69.000 anche gli 11.000 o 14.000 che erano del concorso che ancora è in svolgimento fra corsi e ricorsi, e addirittura di un paio di settimane fa c'era un'insegnante che è andata a vedere il suo elaborato e ha scoperto che non era assolutamente come l'avevano frettolosamente, per non dire peggio, valutato, escludendola dall'orale. Quindi insomma, in questa situazione non lo so, è stata fatta, portata a termine la ricognizione sui i beneficiari eventuali della quota 96, cioè praticamente quelli del 52, che potevano avere appunto 36 anni di servizio e 60 di età, e 35 e 61 così via, sono 4.000. Ma si calcola che di questi 4.000 solo 3.500 decideranno di andare in pensione, per un totale, hanno detto, di 10 milioni di euro di spesa, non so come quantificata poi. a che livello. Quindi insomma mi sembrano numeri un po' buttati là, come già ha fatto Profumo quando ha indetto il famoso concorso. Non ho adesso i dati di quanti, credo che quest'anno non ne sia stato, no, qualcuno forse l'hanno immesso in ruolo in alcune regioni, ma comunque 69.000 a fronte di in pratica blocco delle pensioni mi sembra una cifra che è solo propaganda. E poi c'è un capitolo che riguarda la formazione dei docenti, e l'unica cosa che mi sembra sia rilevante è che è scomparso quel comma che prevedeva l'obbligo di formazione per quei docenti che avessero avuto risultati delle prove INVALSI sostanzialmente insoddisfacenti. Si parla genericamente solamente di un rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti e ovviamente di formazione degli insegnanti in materia di percorsi scuola-lavoro, tanto a ribadire quanto già detto. C'è anche un capitolo sull'edilizia scolastica in cui si dice: per far fronte alle carenze strutturali delle scuole, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, per l'adeguamento, la costruzione di nuove palestre nelle scuole, edifici e residenze universitarie, che si fa? Mutui. Cioè le scuole possono contrarre mutui trentennali a tasse agevolati, quindi non si mette una lira sostanzialmente su questo argomento, perché si dice si può fare i mutui. Ora su questo facciamo una brevissima pausa musicale perché abbiamo un intervento telefonico. It's late. It's time to go. Where or when, I don't know. We drank enough of this, I'm sure. That now we'll have to take it slow. And if you too, I will come with you, my love. Two empty chairs in front of the sea, and a bottle of wine are all we need to feel free. But be careful or I might drown. But if you too, I will drown with you, my love. Oh, oh, oh, oh, oh. Eccoci qua, ci senti? Sì, buonasera a tutti e a tutti. Volevo intervenire per riferirmi a un'altra legge che è stata appena approvata, confermata dalla ministra Carrozza, ovvero il decreto ministeriale del 5 novembre sull'edilizia scolastica, che è un'altra delle promesse degli sbandieramenti, no, del governo, della ministra in particolare, annunciati già da giugno nel decreto del fare, che poi è stato convertito in legge. Adesso abbiamo il decreto ministeriale che ha stanziato una grossissima cifra per le misure urgenti per l'edilizia scolastica, che sono 150 milioni. In realtà nello stesso momento in cui la ministra firmava questo decreto, quindi l'intervento per meno di 700 scuole in Italia, una tegola si abbatteva su di lei, perché un'altra scuola qui nella provincia di Roma veniva chiusa per inagibilità. Stiamo parlando del liceo classico scientifico di Pomezia, di Pascal, che proprio martedì ha chiuso improvvisamente il battente, il cancello, perché ci sono problemi all'edificio, strutturale all'edificio. E quindi è successo che la mattina di martedì gli studenti sono stati rimandati a casa insieme a tutti gli altri lavoratori, e mercoledì pure è rimasta chiusa, e il motivo è che erano stati segnalati dei fenomeni vibrazionali, cito, da parte di due docenti che avevano messo per iscritto questo problema, e alla fine si è capito che nei piani alti dell'edificio c'era il pavimento, nelle aule, nei corridoi tremava. E così come improvvisamente era stata chiusa, giovedì improvvisamente è stata riaperta, perché un esame visivo dei vigili del fuoco rassicurava tutti, e non erano state riscontrate, non venivano riscontrate alcuna criticità alla struttura. Però questo esame visivo non ha rassicurato molte persone, tanto che venerdì, che era rimasta aperta la scuola normalmente, una classe non era entrata, e le famiglie si erano mobilitate per raccogliere delle firme, per chiedere dei chiarimenti più precisi, più profondi. E a fine mattinata proprio della giornata di venerdì scorso, la preside, dopo un controllo con il rappresentante responsabile del lavoro dei lavoratori, quello della scuola, si sono resi conto che invece c'erano delle criticità importanti all'edificio. Quindi è stato chiuso immediatamente e l'attività è sospesa sine die, nel senso fino a che qualcuno non comunica a 1100 studenti cosa succede in questo edificio. Scusa, la prima ispezione chi l'ha fatta? No, forse mi è sfuggito. Vigili del fuoco? Sì. Ah, ho capito. Ma l'edificio è in cemento armato? Sì, l'edificio ha questa particolarità che negli anni passati è stata costruita, il blocco dell'edificio è quello quello grande, quello iniziale della scuola. Dopodiché, poiché la scuola si è ingrandita, è stato costruito un'ala e è stata semplicemente attaccata. E quindi si pensa che fosse, che sia questa parte attaccata semplicemente che possa non essere, che non fa parte del blocco centrale dell'edificio, possa essere problematica. In realtà qualcuno dice che già negli anni passati si avvertivano questi movimenti, queste vibrazioni fenomenali, io direi, riferendoli però ai lavori circostanti, perché intorno alla scuola sono stati e ancora vengono costruiti dei palazzi piuttosto alti e imponenti, e quindi qualcuno parlava di martelli pneumatici al lavoro che si sentivano anche sotto i piedi di chi stava nell'edificio. La cosa è comunque altri invece parlano invece del terreno sulla quale sorge la scuola, e sta di fatto che è cambiata, dopo i due giorni di riapertura di giovedì e venerdì scorso. In realtà questo nuovo esame fatto da un architetto, quindi non un ingegnere, ha rivelato delle profonde crepe orizzontali, verticali, oblique e strutturali, cosa che non si era vista nei giorni precedenti. E quindi io non so se il motivo è, la questione è che sono nuove queste cose, non erano state viste perché sono sorte in questi due giorni, oppure forse il primo sopralluogo non era stato così particolarmente approfondito. sta di fatto che ovviamente sono state avvertite dalla ministra Carrozza in giù fino al commissario straordinario provinciale, il sindaco di Pomezia, e la dirigente chiede dei nuovi spazi in cui riprende attività didattica, fatto salvo che fin quando qualcuno non assicura che la scuola, quell'edificio sia praticabile, nessuno più ci possa entrare. Quindi, senti, ci sono già l'idea di che tipo di soluzioni? Perché insomma, per cose precedenti sono abbastanza preoccupanti anche le soluzioni da un punto di vista logistico. No, in realtà non è. Non dico sull'edificio, su dove continuare l'attività didattica. Ma in realtà ci sarebbe una succursale che era stata chiusa perché non serviva più al liceo, che potrebbe essere riaperta, che però è un palazzo, è un condominio trasformato in scuola, edificio scolastico in maniera piuttosto così rozza, che potrebbe ospitare al massimo 10 classi, mentre il liceo Pascal conta 43 classi. La vedo anche poco fattibile l'utilizzo di altre scuole del comune di Pomezia al pomeriggio, non lo so, oppure altre zone, lì anche Pomezia è anche zona di, ci sono delle aule usate per l'università, però diciamo rimane piuttosto problematico. Certo, la soluzione di riaprire la scuola quando in realtà la dirigente lunedì ha comunicato che l'esito che lunedì stesso è stato fatto dagli esperti, diciamo dai tecnici della provincia, chiedono almeno 20 giorni per un responso, per un'analisi della verifica strutturale dell'edificio fatta ieri, e quindi la preoccupazione innanzitutto tra serpeggia preoccupazione forte, perché se queste criticità sono importanti, si è rischiato l'incolumità di più di 1000 persone. E poi la soluzione anche, speriamo che non sia così superficiale, nel senso che si faccia, se prima queste criticità non scompaiano, così come sono sorte, non si metta una pietra sopra per dire va bene, entrate lo stesso, perché tanto la parte principale, il blocco centrale della scuola regge. Quindi questa scuola rimane sospesa, la scuola è chiusa da martedì. Dicevo questo, lo collegavo al decreto ministeriale, perché i 150 milioni stanziati per il 2014 coprono una piccolissima parte degli interventi invece richiesti, che sono 3.302 in Italia, 3.302, 2.500 sono risultati ammissibili, e di questi però soltanto 692 saranno assegnati, gli appalti saranno assegnati entro il 28 febbraio del 2014. E alcuni di questi, 202 in particolare, sono per bonifiche per amianto, delle scuole hanno amianto al proprio interno, di cui noi sappiamo. Poi magari ovviamente è assai probabile che molte di noi e molti di noi lavorino in scuole in cui c'è amianto senza a nostra insaputa. E niente, questo era a Roma, per esempio. Di questi 692, quindi meno di 700 interventi urgenti, e soltanto 4 saranno fatti, soltanto 4 scuole, che sono a Malaspina, Caproni, Asordi e Montessori, soltanto queste 4 hanno ottenuto un finanziamento in base a una graduatoria che ha fatto il Ministero. Quindi siamo intorno al 20% delle scuole che hanno chiesto, che sono adesso inagibili o totalmente o parzialmente, soltanto il 20% otterrà una soluzione, ha ottenuto così attenzione da parte del Ministero. Del resto era stato lo stesso Ministero, mi pare sotto profumo, a dire che il 70% degli edifici scolastici non assolve a tutte le norme edilizie previste, antisismiche, certo. Da una parte, questa dell'amianto per esempio riguarda tantissimo gli edifici delle scuole medie inferiori, perché molte sono state costruite dopo il 62, dopo la scuola media unica, perché c'è stato bisogno di molti edifici, e sono anni in cui l'amianto si usava largamente, insomma, nelle costruzioni, soprattutto quando si aveva fritta, insomma. E poi ci sono anche appunto tutti i problemi nel frattempo, nel caso specifico che portavi, non sottolineerei anche come ultimo aspetto, insomma, che si tratta di un liceo, di un'area molto frammentaria, cioè a quel liceo fanno capo ragazzi e ragazze che arrivano da tutti i paesi limitrofi, e quindi diventa ancora più complesso far andare di pomeriggio i ragazzi e le ragazze a scuola, perché è una scuola, una zona fra l'altro dove i mezzi pubblici sono quasi inesistenti, ci sono soltanto proprio negli orari in cui portano i ragazzi a scuola e li riportano indietro, quindi diventa veramente molto complesso. Sì, sì, infatti, quindi per questo ho il timore che possa essere riaperta la scuola così come soluzione, come danno minore a questo problema, non sarebbe lungimirante, come invece è stato chiudere immediatamente, perché poi dopo facendo, è stata la segnalazione scritta dei due docenti a porre il problema, come dire, sul tavolo, mentre in realtà appunto un'ala della scuola avvertiva queste vibrazioni diffusamente lungo il corridoio, però non si è fatta molta attenzione, si è parlato anche di terremoto, però dopo aver visto che non era segnalato alcun terremoto, alcuna scossa anche minima, anche di piccola intensità nella zona, allora la preoccupazione è diventata allarme. Sì, ma poi in effetti c'è stata, no, ne abbiamo parlato anche in trasmissione, la sentenza di Torino col PM Guariniello sul liceo di Rivoli, dove cadde il controsoffitto, uccise un ragazzo e ne rese permanentemente inabile un altro. E lì Guariniello disse espressamente che se fosse stata una ditta, insomma un posto di lavoro, che nelle condizioni in cui sono molte scuole verrebbe chiusa immediatamente. Invece per le scuole, senza arrivare appunto a estremi di stabilità strutturale, secondo le norme che ci sono adesso dovrebbero essere chiuse tantissime scuole, perché non dotate, diciamo, di un via di fuga per esempio in caso di incendi e così via. E però su questo, no, stranamente il diritto allo studio passa prima del diritto alla vita, diciamo diritto allo studio con sorriso anche amaro, e questa è una cosa assurda. Si è arrivati di deroga in deroga e ci sono scuole costruite due secoli fa, a Roma ce ne sono diverse, dove veramente in caso di incendio non ci sono scale esterne, e quindi a quel punto io non posso immaginare. Su questo magari qualche dirigente dice: ma no, ma che vuoi che prenda fuoco dentro una scuola? Oppure: ma no, il terremoto a Roma non viene. Io gli ho detto: sì, perché c'è il Papa. Questa è una cosa che a Roma si dice. Sì, infatti. Credo che sia abbastanza importante da questi microfoni invitare studenti, famiglie e lavoratori e lavoratrici della scuola a vigilare e a segnalare, perché quando le cose vengono dette diventa molto difficile far finta di niente, mentre fino a che non si parla, non si esplicita, si può far finta di niente. Infatti, quindi, come dire, l'attenzione massima alla sicurezza, e anche per esempio, no, in tutte le scuole adesso è obbligatorio, si fanno queste simulazioni dell'esodo, sempre molto scherzando, lo facciamo noi, lo fanno gli studenti, le studentesse, come se fosse, no, una mezz'ora di perdita di tempo. In realtà poi ci si accorge che nelle scale antincendio, dove ci siano, il passaggio non è così semplice, che una classe prende la direzione sbagliata e va a ingrossare le fila dell'ingresso principale. Quindi di fatto io direi che la sottovalutazione è enorme, anche se poi invece abbiamo degli esempi drammatici. Dunque il diritto alla vita viene prima del diritto allo studio, e le scuole, la maggioranza delle scuole sono state costruite, hanno più di 50 anni, questo lo dimostra. In più i numeri che abbiamo detto sono sempre sottostimati, nel senso che noi abbiamo almeno 2400 scuole con problemi, secondo alcune osservazioni, indagini per esempio di Legambiente o di altre, che hanno problemi con l'amianto, e solo 202 avranno un intervento. In più questi interventi sono stati segnalati come rifacimento del tetto, in realtà là dentro c'è amianto, quindi è smaltimento di una sostanza che è molto pericolosa e che non può essere trattata come rimettiamo delle tegole. Dunque massima attenzione a questi alla sicurezza. Sì, anche perché il diritto alla vita viene prima del diritto allo studio, ma il diritto allo studio è anche il diritto a studiare in ambienti sani e sicuri, insomma, altri, evidentemente, insomma. E come dire, questo fatto per esempio delle esercitazioni antincendio, che chiunque lavori a scuola conosce, perché due volte l'anno credo vengano fatte obbligatoriamente, come dire, a me sembra che in Italia le leggi sulla sicurezza vengano scritte perché poi si faccia finta di rispettarle, cioè nel senso che diventa una specie di rito in cui in maniera così poco credibile due volte l'anno facciamo questa cosa, ma è tutto limitato a quello, non so come dirlo, per cui diventa una specie di scampagnata, usciamo di classe e andiamo fuori, però poi non c'è come dire, ognuno di noi ha la precisa convinzione che nel momento in cui ci fosse una reale emergenza non succederebbe quello che facciamo finta che succeda nelle simulazioni, non so come spiegarmi meglio. Per esempio nella mia scuola sono due piani, cioè tre piani, uno il pian terreno e poi due piani sopra, e chi sta al primo piano, quel pian terreno non so se esce per primo, immagino di sì, chi sta al primo piano deve aspettare che scendano quelli del secondo, è una scuola di poco meno di 1000 alunni, voi potete immaginare quello che potrebbe succedere con un'unica uscita preceduta da una scalinata anche insomma abbastanza ripida, immaginiamo al di là della scampagnata, cioè anche se tu lo facessi seriamente non potresti mai ovviare a questo tipo di problemi, insomma. E la stessa cosa sono i corsi sulla sicurezza a cui sono obbligati i lavoratrici e i lavoratori ogni anno, 4 ore della nostra vita viene devoluta a questo, che si riduce a una cosa noiosissima in cui un personaggio arriva là, ti fa un discorso un po' lungo, poi ti dà un questionario, ti detta le risposte e quindi è assolto l'obbligo. E se prende pure i soldi. Sì, soprattutto, ma è evidente, almeno insomma così a parlarne adesso, che sul problema della sicurezza esistono due livelli, c'è cioè un livello formale, come dicevi tu prima, no? Che è la prova antincendio, che è appunto il corso sulla sicurezza, e poi c'è un livello sostanziale e uno oscura l'altro, cioè ho fatto la prova di evacuazione e quindi forse posso soprassedere sull'amianto, sugli infissi, sull'impianto elettrico non a norma, sugli infissi che non funzionano, e su tutte quelle che sono le condizioni di vita all'interno delle scuole che non sono assolutamente accettabili. Fino alla spicciolo, che è il fatto che in genere c'è freddo nelle scuole, molto caldo d'estate, e che le palestre non hanno niente con cui lavarsi, perché anche questo ormai sembra normale, che i ragazzi devono fare ginnastica e poi andare in classe così. Che nessuna palestra privata ovviamente avrebbe dei clienti se non desse modo di lavarsi. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa sul caso. Volevo aggiungere le piccole cose quotidiane che noi sottovalutiamo, ma molte finestre sono, in molti edifici sono ghigliottine, però come dire, si chiudono entrambi gli occhi, oppure l'illuminazione, ma una cosa forse più importante è no, i metri quadri a disposizione degli studenti e delle studentesse. Una volta, cioè adesso che gli alunni, le classi sono intorno ai 30, che ospitano 30 persone, le aule o sono rimaste le stesse oppure sono rimpicciolite. Io ho presente delle aule che sono veramente come dire, dei piccoli dei loculi, dei loculi, e lì la sicurezza non come dire, non ne teniamo conto, e tutte le segnalazioni che dei dirigenti e le dirigenti fanno e le fanno perché poi la responsabilità è loro, quindi devono stare attenti sul fatto che se le aule sono di pochi metri quadri non possono ospitare 25-30 persone, tutte queste indicazioni, segnalazioni vengono ignorate, perché poi dopo come dire, diventa prioritario invece il numero di formazione delle classi, che non può aumentare per motivi di sicurezza, mentre a mio avviso è forse il dato fondamentale, oltre a quello didattico, che si insegna meglio a 20 alunni piuttosto che a 30, il dato della chi entra, come ci si riesce a muovere dentro questi spazi angusti, è un altro dato che noi sottovalutiamo sempre e che sul quale ormai scherziamo. mentre in realtà poi dopo, quando esce fuori la tragedia, tutti dicono vabbè, io l'avevo detto, però nessuno si assume mai la responsabilità. Dunque, come dire, l'edilizia scolastica continua a essere un'emergenza nonostante questi 500, anzi proprio per questi 150 milioni che il governo ha trovato. Senti, noi ti ringraziamo e continueremo a parlarne, insomma. Va bene. Ciao. Ciao. Stiamo avviando alla conclusione di questa puntata dell'Ora di Buco. Ancora qualche notizia. Allora, l'altro anno abbiamo parlato molto del referendum che si è tenuto a Bologna, che è stato vinto su iniziativa di un comitato di genitori, insomma altre persone, che si rifaceva all'articolo 33 della Costituzione, per cui le scuole private sono libere ma senza oneri per lo Stato. Riguardava appunto lo stanziamento, mi pare, di 1 milione di euro per le scuole private, convenzioni col comune, per cui molte bambine e molti bambini si sono trovati senza posto nelle scuole dell'infanzia comunali e sono state quindi dirottate, ma nelle scuole private sovvenzionate appunto dal comune, ma con un ricarico di spesa. Cioè, non immaginate che era tutto a carico del comune e poi il genitore pagava quello che poteva pagare nella scuola comunale per la mensa, cioè erano ricarichi notevoli. Quel referendum è stato vinto, ci riproponiamo anche di riparlarne con, insomma, i promotori e le promotrici. Però a questo proposito è nata a Roma, sta nascendo un altro comitato, articolo 33, che vuole elaborare proprio una proposta di iniziativa popolare per appunto finanziare esclusivamente la scuola dell'infanzia comunale, utilizzando i fondi che sono destinati anche a Roma alle scuole private. Parliamo ovviamente di scuole comunali, sappiamo bene che ci sono le scuole dell'infanzia statali. E noi pensiamo che sia quantomeno un'occasione per agitare il problema, per parlarne. Non è, sinceramente, siamo così un po' scettiche sulla possibilità che questo possa avere poi un esito, però insomma ci sembra importante parlarne, perché magari chi non è direttamente coinvolto queste cose non le sa, e questi soldi che vanno alle scuole private sono soldi del comune, quindi anche di chi queste scuole, la scuola dell'infanzia, non li utilizza. C'è un primo appuntamento che è per il 19 novembre prossimo, mi sembra che sia un mercoledì, comunque dalle ore 17 alle 20 presso l'ITIS Galilei in via Conte Verde numero 5, che si raggiunge agevolmente dalla fermata metro Manzoni, o comunque insomma ci passano diversi autobus. E questa era la prima cosa. Un'altra cosa che si collega a questa vicenda riguarda ancora Bologna, ed è il fronte delle mense scolastiche. Noi abbiamo trovato la notizia dalla Repubblica dell'11 novembre di ieri, in cui insomma si è visto che i pasti sono diminuiti di quantità, che non viene per esempio concesso il bis a bambini che magari hanno ancora fame, che la qualità è anche scadente, e che soprattutto, alla faccia del decreto carrozza, il biologico in molti comuni della provincia è assolutamente a livelli molto bassi. Insomma, la questione è complessa. Abbiamo cercato di trovare qualcuno del comitato dei genitori che si occupa di questa questione, ma insomma oggi non è stato possibile. Sicuramente insomma con una settimana di tempo ne potremo ancora parlare martedì prossimo. Ultima notizia in chiusura, la manifestazione degli studenti e delle studentesse venerdì prossimo 15 novembre, assediamo i palazzi del potere, occupiamo le scuole, l'indizione, potete andare a vederla diciamo più completamente su studout.it, è una mobilitazione studentesca che si richiama evidentemente al 19 ottobre e che scrive lanciamo una nuova data di mobilitazione appunto il 15 novembre. Il 15 novembre, scrivono gli studenti e le studentesse, ci metteremo nuovamente in gioco in prima persona attraverso le pratiche dell'assedio ai palazzi del potere e della sollevazione generale. Intanto le occupazioni saranno il momento in cui portare la sollevazione studentesca all'interno degli istituti. E quindi si tratta di una giornata, ma in una contestazione, in un contesto più ampio di sollevazione che vuole essere appunto praticata attraverso le occupazioni. Sì, è arrivata anche notizia di alcune occupazioni in licei romani, ma personalmente sulla cronaca io non l'ho trovata, quindi magari adesso vedremo anche questa settimana di saperne di più. Detto questo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 16 e lasciamo i microfoni al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Lovely, lovely. All right, myself.